36. La lettera di velluto rosso. Il 10 agosto 1866 fu un altro giorno che Anna non avrebbe mai dimenticato. Era iniziato abbastanza piacevolmente. Bibi aveva trovato delle belle anone al mercato e Anna e Louis le avevano mangiate a colazione. Sua maestà la mandò a chiamare presto. «Mem», le disse non appena fu entrata, «scriva subito una lettera per informare Sir John Browning che ho cambiato idea. Non lo voglio come ambasciatore in Francia a preparare il nuovo trattato. Manderò un'ambasciata da qua con Pia Suri Wong Wai Wat». I cambiamenti di opinione del re erano troppo comuni per sollevare la sua indignazione, anche se in quella circostanza pensò che Sir John era stato trattato piuttosto male. L'ultimo giorno di giugno il signor Aubert era ritornato a Parigi. I francesi a Bangkok ne erano apertamente lieti. Poco tempo prima, il signor Lamache, che era stato licenziato per la sua insolenza verso il re l'anno prima, era ritornato alle sue dipendenze. Un corrispondente aveva scritto al recorder di Bangkok chiedendo perché il re avesse richiamato il signor Lamache, il famoso sergente istruttore, a ricoprire la posizione che aveva occupato precedentemente. In questo modo gli era stato fatto un favoritismo? Il dottor Bradley pubblicò la lettera con la domanda: «Possono i nostri lettori dare una risposta al nostro corrispondente?» Per questo un mercante francese, il signor Allouin, rimproverò il vecchio dottor Bradley. Senza mezzi termini gli disse che con quell'impertinenza metteva in pericolo la sua vita e che il signor Lamache aveva in mente di dargli una bella lezione e in realtà aveva minacciato di ucciderlo non appena gli si fosse presentata l'occasione. Il dottor Bradley si tirò la barba grigia e rispose imperturbabile: «Allora dimostrerebbe di essere un assassino e peggio di come lo avevo immaginato. Inoltre dovrebbe pagare il suo atto con la vita». «E perché dovrebbe importargliene?» strillò il signor Allouin. «Se può prendere la sua, potrebbe uccidersi poi, perché no?» Poi aggiunse: «Quando ritornerà il signor Aubert, la perseguirà comunque per aver pubblicato sul Bangkok Calendar che nell'agosto scorso aveva creato scompiglio a palazzo. Nega che sia vero?» Il mercante non aveva risposto, solo ulteriori imprecazioni per l'americano che aveva osato pubblicare commenti sgradevoli alle azioni del console francese. Al suo ritorno, il signor Aubert portò una lettera autografa dell'imperatore francese e una magnifica spada per il re, oltre che una spada da parte del principe imperiale di Francia per il principe Chulalongkorn. Questi doni furono offerti in un'udienza formale. Tutto ciò sembrava amichevole, ma come tutti a Bangkok sapevano, dietro c'era il grande progetto di trasformare il Siam in un protettorato francese. Il signor Aubert aggiunse fuoco ai sospetti, aprendo immediatamente i negoziati per la revisione del trattato sulla Cambogia che l'anno prima aveva imposto con la forza ai siamesi. Un articolo di quel trattato non aveva soddisfatto i suoi superiori di Parigi. Articolo 4. I francesi accettano che le linee di confine delle province di Battambang, Nakhon Siem Reap, insieme alle province del Laos che appartengono al Siam sul confine con la Cambogia, rimangano, per il momento, come sono state fissate. Quindi non volevano accettare nemmeno temporaneamente che fossero siamesi. Il re era testardo. Il massimo che il signor Aubert riuscì a strappargli fu la riluttante promessa di mandare un ambasciatore a Parigi per negoziare e l'ulteriore promessa che i siamesi avrebbero inviato una delegazione con prodotti locali scelti alla grande esposizione che si sarebbe tenuta nel 1867. Ad Anna era stato chiesto di scrivere a Sir John Bowring per richiedere i suoi servizi come plenipotenziario alla corte di Francia. Questa lettera aveva a malapena avuto il tempo di giungere a destinazione che il re aveva cambiato idea, manifestando l'intenzione di mandare al suo posto il figlio del Kralahome. Lei sospirò e si mise al lavoro. Prima che finisse di scrivere, il re aggiunse un'ulteriore raccomandazione. Doveva spiegare la cosa in modo tale da attribuire la responsabilità al consiglio del signor Thomas George Knox. Se lei aveva scrupoli su questo punto, perché non dire che il consiglio era suo? Anna si alzò dalla sedia. «Vostra maestà», esclamò, «non accetterò di fare niente del genere». Poi, messa sull'avviso dall'espressione rabbiosa che stava comparendo sul volto del re, aggiunse che avrebbe espresso a Sir John il disappunto di sua maestà, ma che non poteva attribuire il cambiamento di idea al signor Knox o a se stessa, dal momento che non avevano niente a che farci. Si era aspettata la sua furia, ma non di quelle proporzioni. Era talmente violenta da sembrare grottesca. Aveva sempre avuto un formidabile talento per gli insulti. Monkut cercò di fiaccare la sua resistenza con parole viziose di obbrobrio e quando fallì, con le minacce. Lei si alzò e, senza replicare, uscì dal palazzo, attraversò i giardini esterni ed entrò in casa. Nervosa e sconvolta per la scenata, cominciò a rimpiangere di non aver lasciato il Siam come gli amici la spingevano a fare. Se non fosse stata così profondamente assorbita dal suo lavoro, soprattutto nell'insegnamento al giovane principe Chulalongkorn, sarebbe partita molto tempo addietro. Ora che era entrato nel noviziato, non aveva nessuna garanzia che fra 3 mesi le sarebbe stato permesso di continuare a insegnargli. Forse sarebbe stato meglio andare in Inghilterra con Louis e rinunciare all'impari lotta con il re. C'era anche il problema della sua salute. Dopo la malattia, le ore che poteva dedicare al lavoro si erano drasticamente ridotte. Il re aveva ascoltato con riluttanza il dottor Campbell, secondo il quale era impossibile per la signora Leon Owens continuare a fare tutto quello che le era stato chiesto precedentemente. Ma anche i limiti sul tempo non potevano proteggerla dal temperamento capriccioso e dalle richieste stravaganti del re. Erano più difficili da sopportare delle lunghe ore di lavoro. Nel tardo pomeriggio, Pra Alak, il segretario privato del re, comparve con un foglio su cui erano elencate alcune accuse che avrebbe dovuto leggere e firmare. Le accuse erano varie. Aveva rubato un libro prezioso in sanscrito dalla sua biblioteca. Aveva spesso disobbedito agli ordini del re. Si era opposta ai suoi desideri. Aveva avuto la presunzione di rimproverare Sua Maestà per questioni che non la riguardavano. Aveva dimostrato mancanza di rispetto stando in piedi mentre lui era seduto, pensando male di lui e dicendogli che era malvagio. Aveva camminato sopra la testa di Sua Maestà. Aveva onorato e favorito il console inglese, il signor Thomas George Knox, a spese del console americano, il signor James Madison Hood. Con quest'ultima accusa era provata dal fatto che lei aveva scritto il nome del console americano in fondo a una circolare reale dopo aver messo il suo e quello del console inglese all'inizio della pagina. Hannah lesse le ridicole accuse con rabbia crescente. Una volta, molto tempo prima di capire come funzionava l'etichetta palazzo, il re aveva espresso il desiderio di un libro. Lei si era ricordata che si trovava nella stanza al piano di sopra, dove il re aveva lavorato, e immaginando di obbedire al suo desiderio, se non al suo ordine, si era affrettata a prenderlo. Senza pensare, era entrata nella stanza direttamente sopra quella in cui era seduto il re. Aveva preso il libro e lo aveva portato di sotto, pensando che lo avrebbe reso felice. Ma lei gli aveva camminato sopra la testa. Con sorpresa si accorse che le donne che si stavano occupando di lui erano scosse dal terrore. Con labbra tremanti, le avevano assicurato che se avesse compiuto ancora un'infrazione simile all'etichetta sarebbe stata buttata in una segreta. Le altre accuse erano ugualmente grottesche. Restituì lo strano documento a Pralak senza una parola. Ma non l'ha firmato, obiettò. No, e non lo farò, ribatté lei bruscamente. Può riferirlo al re. Tutti gli schiavi si buttarono in ginocchio e la implorarono, nel nome delle loro padrone, di acconsentire alle richieste del re. Si rese conto che agivano così perché le volevano bene, temendo le conseguenze, ma non avrebbe acconsentito a fare quello che non poteva. Pra Alak, che era un uomo dalle molte risorse, le offrì una cospicua somma di denaro. Pra Alak, lo rimproverò Anna, sa perfettamente che non posso essere comprata. Se quello che il re mi ha chiesto fosse giusto, lo avrei fatto senza bisogno di denaro, ma è sbagliato e non lo farò, e di certo non per soldi. Le procurava dispiacere rendersi conto che lo scriba, come il re, non riusciva a convincersi della sua integrità. Erano passati 4 anni e mezzo da quando aveva iniziato a lavorare a palazzo e nemmeno una volta il denaro aveva influenzato le sue considerazioni in difesa dei sofferenti e degli oppressi. Tuttavia, quest'uomo, che aveva aiutato infinite volte, pensava che poteva essere comprata. Pra Alak alzò l'offerta. Quando rifiutò di nuovo, Anna si accorse dalla sua espressione che credeva che lei stesse contrattando. Per 2 ore discusse e implorò, lentamente aumentando la somma che era disposto a pagare perché firmasse le accuse e la lettera a Sir John Bowring. Se ne andò disperato, convinto che la grossa somma offerta fosse insufficiente per la cupidigia dell'inglese. Se ne andò a testa bassa, piangendo per se stesso perché tornava dal re sconfitto e poteva aspettarsi le conseguenze più sgradevoli per la sua persona. Anna era così sfinita dalla lunga discussione che cenò a stento. Dopo si sedette da sola nel soggiorno al pian terreno, senza riuscire a non pensare agli avvenimenti della giornata. Eccola ancora coinvolta in un conflitto che non aveva scelto, ma per questo non più facile. La paura le teneva compagnia. Un biglietto anonimo proveniente dal palazzo l'avvertiva che il suo rifiuto di firmare i documenti aveva accresciuto la rabbia del re. Aveva gridato ai cortigiani: «Nessuno mi libererà di questa donna?» Anna chiamò i suoi servi e fece chiudere e sbarrare le porte. Ordinò di non lasciare entrare nessun siamese, nemmeno quelli del palazzo, se non dietro suo ordine. In precedenza, solo una volta aveva temuto per la sua sicurezza personale. Essendo inglese, aveva creduto di essere immune dal pericolo di morte rapida che aveva colpito molti sudditi di Sua Maestà. Era incappata nella gelosia di certi cortigiani, era vero, e si era fatta nemica la maggior parte della classe privilegiata, ma il re aveva realmente suggerito la sua eliminazione o era agitata da timori infondati? In passato c'era stata una sola occasione in cui aveva visto il re infuriato come ora. Lei aveva rifiutato di scrivere una lettera al conte di Clarendon per informarlo delle obiezioni sul signor Knox. Allora il re era stato così violento che lei aveva temuto per la sua incolumità fisica. Per 3 giorni era rimasta chiusa in casa, con porte e finestre sbarrate. In seguito aveva riso di sé e le sue paure erano sembrate immaginarie, ma erano veramente frutto della sua immaginazione? O aveva intuito un pericolo reale, svanito soltanto quando la rabbia del re era sbollita? A lungo aveva creduto che il Kralahom avrebbe frenato l'impetuosità del re, ma le sue relazioni con lui avevano cessato di essere cordiali. Il suo fratellastro, l'interprete, molto tempo prima l'aveva avvertita che l'avrebbe messo contro di lei. Credeva che ci fosse riuscito e non pensava più di poter contare sull'aiuto del Kralahom. Si era resa conto del cambiamento quando era andata a trovarlo con una delle sue clienti. Nella casa del fratello del Kralahom un cinese era stato ucciso, era stata rubata la sua schiava preferita e la moglie e i figli erano caduti in estrema povertà. L'assassino si era messo al sicuro dividendo il bottino con il suo padrone. Invano la vedova aveva cercato giustizia. Alla fine un giudice, seccato dalle sue insistenze, con un pretesto aveva mandato il figlio in galera. La donna si era rivolta ad Anna, che era riuscita a far liberare suo figlio, ma solo accogliendolo in casa e cambiandogli nome. Lo aveva battezzato Timothy. Il passo successivo era stato di andare con la donna dal Kralahom per cercare di recuperare parte delle cose rubate. Il primo ministro era seduto sul pavimento e stava giocando a scacchi. Vedendo entrare Anna, aveva mandato uno schiavo a prendergli una giacca, poi però non le prestò più attenzione fino alla fine della partita. Quando Anna ebbe spiegato il motivo della sua visita, il Kralahom era parso irritato, ma aveva mandato a chiamare il fratello. Avevano parlato a lungo e alla fine, accigliato, aveva guardato la cinese e l'aveva informata che se si fosse ancora lamentata con i giudici l'avrebbe fatta frustare. Affrontando Anna con un sorriso torvo, aveva detto: «I cinesi sono una grossa seccatura. Buongiorno, signore». Era la prima volta che Anna lo aveva visto deliberatamente ingiusto. Poteva solamente significare che suo fratello aveva prevalso e che lei non si poteva più rivolgere a lui per ottenere giustizia. La sera di quello stesso giorno, mentre sedeva da sola in salotto, aveva sentito un lieve rumore. Si era guardata intorno e, con grande sorpresa, aveva scorto l'interprete acquattato vicino al piano. «Come osa entrare in casa mia senza farsi annunciare?» «Mem», aveva risposto lui, «mi hanno fatto entrare i suoi servi, sanno chi mi manda e non oserebbero respingermi, e adesso sappia che mi manda il Kralahom che vuole che lei alla fine del mese dia le dimissioni». «E con quale autorità mi manda questo messaggio? Non so, ma è meglio che obbedisca». «Gli dica», aveva risposto lei, «che lascerò i Siam quando mi aggraderà e che nessuno deciderà il mio posto». L'interprete se n'era andato strisciando e dicendo che lui non aveva responsabilità nella faccenda. Quella notte non aveva dormito. Più volte la prudenza le aveva suggerito di cercare rifugio nella fuga, ma al mattino aveva deciso di restare. Non si sarebbe fatta scacciare. I suoi amici al palazzo erano allarmati per la sua sicurezza, ma lei aveva riso delle loro paure. Circa 3 settimane più tardi, il re era partito per il nord e le aveva detto che doveva accompagnare i suoi allievi. Al Kralahom era stato chiesto di preparare una cabina per lei e Louis sul suo yacht, il Volant. Prima che lasciassero il palazzo, Lady Songclin l'aveva supplicata di promettere che a bordo della barca non avrebbe mangiato o bevuto niente. Probabilmente probabilmente era meglio dare le dimissioni e tornare a Londra con Louis, o come le avevano suggerito alcuni amici, soprattutto Francis Cobb, andare negli Stati Uniti e farsi una nuova vita. Era immersa in queste considerazioni quando, davanti alla finestra aperta, fu riportata alla realtà da qualcosa che sembrava un'apparizione o il frutto dell'inganno della sua mente stanca. Sobbalzò. Un paio di occhi neri la guardavano attraverso le foglie di un cespuglio, fissi come quelli di un basilisco. Il primo impulso di Anna fu di gridare per chiedere aiuto, il secondo di ricacciare il panico. Come stava diventando paurosa. Se la persona fuori fosse stato un assassino, sarebbe già stata colpita al cuore da un coltello. Chiamando a raccolta il suo coraggio, chiese: «Chi è là?» «Sono io, vostra signoria», disse una voce bassa di donna che non le era familiare. «È molto che aspetto, ma i suoi servi non vogliono lasciarmi entrare. Hanno detto che ha proibito di far entrare i siamesi». «Sì». «È vero», rispose Anna, «non voglio vedere nessuno stasera, nemmeno i miei amici. Sono malata e stanca. Adesso va via, se hai bisogno di qualcosa ritorna domattina». «Pluto, Pluto», mormorò la donna, ancora voce bassa. «Non sono siamese, non abito a Bangkok. Non avrebbe il coraggio di mandarmi via se sapesse che ho remato per 50 chilometri controcorrente per vederla». «Ah, un'altra cliente», Anna pensò disperata. «È proprio stanotte». Con una certa impazienza replicò: «Non c'è motivo che mi racconti i tuoi problemi, non voglio nemmeno conoscerli». «Ma Memcha, per favore, mi faccia entrare soltanto per un minuto. Voglio dirle una parola in privato, solo una. Poi prometto che me ne andrò. Non vuole lasciarmi entrare?» «Dimmi quello che vuoi, allora», rispose Anna, brusca, seccata con se stessa per aver in parte ceduto. «Nessuno può sentirci, non ti farò entrare, qualsiasi cosa tu voglia». «Futo, futo!» esclamò la donna con riprovazione. «Non avrei remato per tutta quella strada da sola se non avessi sentito dire che era una brava donna, coraggiosa anche. Naturalmente qualcuno diceva di no, comunque pensavo che avrei potuto provare. Dopotutto volevo così poco». Anche se Anna sapeva che si trattava di una sceneggiata, seppure di buona qualità, ne fu toccata, in parte per il tono autentico di disperazione e in parte per lo stratagemma usato per presentare il suo caso. «Temo di non poterti aiutare, di qualunque cosa si tratti», disse con gentilezza. «Il re è arrabbiato con me e i giudici lo sanno, quindi non ho più influenza su di loro». La donna percepì il cambiamento nella voce. Anna aveva appena finito di parlare che l'estranea poggiò le mani sul davanzale e saltò dentro dalla finestra aperta. Come aveva detto, non era siamese, era laotiana, aveva i capelli tirati indietro sulla fronte nello stile della gente del nord, aveva occhi luminosi e intelligenti, teneva la testa eretta, anche se aveva le mani strette in un atteggiamento di supplica. Era insolitamente alta e forte, con lineamenti belli e regolari, e di certo aveva carattere. Anna vide immediatamente che non si trattava di una persona comune e quasi contro la sua volontà sentì nascere un certo interesse. Il passing della donna era tenuto da una grossa cintura inglese che metteva in risalto la bella figura. Appena fu di fronte ad Anna, iniziò a parlare con una scioltezza e con una gestualità sorprendente. Le lacrime le scendevano spontanee sul viso e la voce si alzava e si abbassava in una cadenza appassionata. Per tutto il tempo in cui raccontò, comunque, seguitò a guardare il viso di Anna con una sagacia che suggeriva che avrebbe cambiato approccio se l'effetto non fosse stato soddisfacente. Anna se ne rese conto. Tuttavia, il suo interesse aumentò così rapidamente che la donna notò il cambiamento di espressione e arrivò alla conclusione di essersi conquistata la simpatia dell'ascoltatrice. «Ecco», disse la schiava. «Dopo averla vista in faccia, sapevo che aveva un cuore buono, nonostante le sue parole». Si avvicinò con un saluto gentile e posò una spessa lettera in una busta di velluto ai piedi di Anna. Era legata da un cordoncino di seta e sigillata con cera inglese. La scrittura sull'esterno non era in siamese, ma in caratteri che per Anna erano sconosciuti. La donna si lasciò cadere in ginocchio e alzò le mani in un gesto supplichevole. «Mem Chao Ka», sussurrò a bassa voce, «le chiedo solo di portare questa lettera a una donna a palazzo di cui le dirò il nome se lei acconsente». Anna cercò di dire che non poteva accettare un incarico così pericoloso, ma non riuscì a parlare. Perché la gente le chiedeva cose impossibili? Più gentilmente che poté, spiegò alla donna del Laos che portare una lettera all'interno del palazzo significava rischiare la vita. La schiava aveva detto che la donna era prigioniera. Bene, era ancora più difficile. Poi aggiunse: Non è solo per la mia sicurezza personale che temo, è anche per mio figlio. Suo padre è morto e se mi succede qualcosa non ci sarà nessuno a prendersi cura di lui. Mentre Anna parlava, i lineamenti della donna si irrigidirono. Il colore scomparve dalle sue guance finché prese l'aspetto di una morta. Gocce di sudore comparvero sulla sua fronte e ondeggiò come se stesse per svenire. La decisione di Anna di essere dura e razionale si sciolse davanti alla completa disperazione della schiava. Preoccupata, iniziò a sfregare le mani fredde della donna. È così importante questa lettera? Chiese. Ma la donna aveva perso la capacità di parlare. Guardò Anna in silenzio. Con un'ultima fitta di rimorso per la sua debolezza, Anna pianse. Oh, per amor del cielo, dimmi qual è il tuo problema e farò del mio meglio per aiutarti. L'effetto della promessa fu immediato. La vita sembrò tornare negli occhi della schiava e il colore lentamente tornò sulle guance. Posò la mano sul braccio di Anna, sussultò e parlò rapidamente come se temesse che lei potesse cambiare idea. Non mi ha chiesto chi sono, disse lei, ma glielo dirò comunque. Sono sicura che non mi tradirà. Mi chiamo Mai Pia e abito a Chiang Mai. Mio padre si chiama Manito e è uno dei più fidati consiglieri del principe Sara Wong. Anche se è uno schiavo. Mia madre era una schiava nella famiglia del principe quando mio padre la sposò e io avevo solo un mese quando le venne chiesto di diventare la balia della figlia del principe, la cui madre era morta dandola alla luce. Siamo cresciute insieme e così sono diventata compagna e amica della mia sorella di latte. Si interruppe brevemente, poi abbandonò le ultime riserve. È la principessa Sunat da Wismita. Fu il momento di Anna di sussultare. La misteriosa principessa di Chiang Mai. Appena il giorno prima aveva sentito che il principe di Chiang Mai era venuto a Bangkok con un seguito di 25 barche per pagare il tributo triennale prima della data prevista. Come al solito, il suo carattere irruente lo aveva coinvolto in liti. Era imputato in un processo che riguardava delle foreste di Teck nel suo principato. Parte civile era una ditta inglese di Moulmein e il caso era di proporzioni tali che il signor Knox era andato in Birmania l'anno prima per occuparsene personalmente. Per alcuni mesi a Bangkok era circolata la voce che il principe stava pensando di allearsi con il re della Birmania. Si sapeva che proprio recentemente aveva mandato ad Ava in dono due elefanti. Non erano elefanti bianchi, in questo caso si sarebbe trattato di aperto tradimento, ma avevano delle macchie bianche attorno agli occhi e code particolari. Il re della Birmania li aveva molto graditi e aveva contraccambiato generosamente con un gioiello d'oro tempestato di rubini. La riconciliazione cordiale non era piaciuta a Re Mongkut. Adesso il principe di Chiang Mai aveva osato comparire nella capitale. Mai Pia era di certo scesa al suo seguito. La schiava continuò la sua storia. Fu to, Memcha. Dalla morte del marito, la principessa è prigioniera nel palazzo del re. Pensiamo che ci siano due serve con lei, ma non ne sappiamo niente da circa un anno. Anna ora sedeva eretta, con il polso che batteva rapidamente. Poteva essere vero che la principessa fosse a palazzo? E se così era, perché non ne aveva sentito parlare? Si era molto interessata alla principessa a causa della sua sfida al re. Di certo, se la principessa fosse stata trasferita nella prigione ordinaria, tutto l'interno sarebbe stato in ebollizione, perché non erano molte le cose che si potevano nascondere con successo. Mai Pia stava parlando e nessuno sa, nemmeno suo fratello, se è viva o morta. Questa lettera è per lei, Mem Chao Ka. Non c'è niente che possa crearle dei guai, nemmeno se cade nelle mani sbagliate. È solo un biglietto di saluto e di simpatia da parte di suo fratello, il principe Otong Karmata, il mio padrone. Oh, Mem Chao Ka, gli dèi la ricompenseranno sicuramente se glielo consegnerà. Prima o poi, non importa quando, ma va fatto con la massima prudenza e segretezza, può salvarle la vita. Almeno è la nostra sola possibilità, cioè se è ancora viva. Mentre Anna rifletteva incredula sulla contraddizione tra il valore che la schiava attribuiva alla lettera e il suo contenuto innocente, Mai Pia aggiunse in fretta: Perché deve morire di dolore al pensiero che non abbiamo mai risposto alla lettera che ci ha scritto da Ban Sitha prima della morte del secondo re? Anna non si impegnò subito. La lettera era spessa, troppo spessa per essere un semplice biglietto di saluti, Inoltre le parole sfuggite alla schiava sul salvarle la vita suggerivano più un piano di fuga della principessa che parole di condoglianze e di incoraggiamento. Non si trattava di un semplice salvataggio come per Son Clin o Lore, considerando l'importanza delle persone coinvolte. Era difficile immaginare la portata della cospirazione che stava dietro la richiesta, ma Epia agiva per conto della famiglia reale di Chiang Mai. Era un clan nobile che sopportava a stento la sovranità di Mon Cut. Dovevano essere terribilmente risentiti per la prigionia della principessa. Il re Mon Cut stava realmente tenendola come ostaggio? Il dono degli elefanti al re della Birmania era una tacita minaccia al re Mon Cut perché liberasse sua sorella se non voleva soffrire le conseguenze di una guerra civile? Stava accadendo qualcosa e Anna esitava a farsi coinvolgere senza sapere molto di più. Dov'è il principe, il tuo padrone? Chiese. È in visita al governatore di Paklat. Anna pensò. Era il padre di Lady Song Clin, un altro potenziale ribelle che aveva pochi motivi per amare il re Mon Cut. L'indecisione di Anna era evidente, ma prima che potesse fare un'altra domanda, accettare o rifiutare il pericoloso incarico, Mai Pia se n'era andata. 37. Il viaggio a Paklat. Anna si svegliò stanca come quando si era coricata. Pensò che forse era più saggio rimanere a casa finché fosse stata chiarita la sua posizione, ma dopo averci riflettuto attentamente, decise di continuare la sua normale routine come se non fosse successo niente. Nei rapporti con il re, il suo successo era derivato dall'apparente mancanza di paura. Più di una volta le sue amiche dell'harem, con una certa invidia, avevano notato la sua temerarietà. Solo una faranga potrebbe farlo, esclamavano. Le faranga sono così coraggiose. Anna sapeva molto bene di non essere coraggiosa, ma si era imposta di non mostrare paura, poiché la sua posizione e la sua sicurezza dipendevano dalla sua capacità di mostrare sempre un aspetto freddo e sicuro. Alla solita ora si avviò con Louis e superò ben presto le mura del palazzo. Una folla di poveri schiavi che vivevano fuori dei confini erano accovacciati vicino al cancello interno, aspettando che fosse aperto. La conoscevano bene e la salutarono con profonde moine. Vicino al cancello c'era un gruppo di soldati in ozio e di uomini dall'aspetto rude che Anna non aveva mai visto prima. Era pieno giorno. Per quanto fosse nervosa, niente nel loro comportamento poteva preoccupare se non la volgarità. Si mosse fiduciosa verso di loro, senza dubitare che l'avrebbero lasciata passare. Invece, tutto il gruppo, compresi i soldati, le corse incontro, gridando minacce e spingendola violentemente indietro. Nelle loro mani comparvero delle pietre. Anna era troppo sorpresa per provare qualcosa. Vide i pezzi di pietra scheggiati, le braccia alzate, e in qualche angolo remoto della mente pensò che presto ne avrebbe sentito l'impatto sul viso e sul corpo. Poi, improvvisamente, fu avvolta da una vibrante massa di umanità. Tra le grida, la folla di schiavi era balzata in sua difesa. Strinsero lei e Louis da ogni lato, frapponendosi con il corpo tra loro e gli assalitori, e li allontanarono dal cancello. Sempre stretti a lei e a Louis, li scortarono fuori dal palazzo fino a casa, dove li spinsero oltre la porta e urlarono ai servi di accorrere subito. Ancora pochi minuti e la casa era in stato di assedio, tutte le porte e le finestre chiuse e sbarrate. L'effetto anestetico dello shock svanì e Anna si ritrovò molto scossa. A pranzo si sforzò di mangiare per rassicurare Louis, che era ancora spaventato, ma solo con grande difficoltà riusciva a non far cadere coltello e forchetta. Il bicchiere tremava tra le sue dita. Ogni volta che Anna guardava attraverso le persiane, vedeva della gente in ozio vicino alla casa. Il primo impulso fu di scrivere al console inglese per riferire l'accaduto. Esitava per parecchie ragioni. Nei suoi rapporti con i siamesi non aveva mai ceduto alla tentazione di dipendere dalla protezione consolare. Sarebbe sembrato vigliacco e contrario alla sua pratica di sfidare apertamente il nemico. E comunque ci sarebbero state complicazioni se avesse chiesto l'aiuto del signor Knox. Con lui si andava spesso a cavallo, con lui, al mattino, lungo la nuova strada, e Anna lo considerava un amico, ma al re non piaceva, e qualsiasi cosa Knox gli avesse detto avrebbe soltanto fatto infuriare ancora di più Sua Maestà, mentre era possibile che riuscisse a togliersi dagli impicci rimanendo tranquilla. si sedette alla scrivania per preparare la lettera in cui spiegava tutto quello che era successo dalla mattina precedente, la sigillò e la indirizzò pronta per essere recapitata se avesse subito ulteriori attacchi. Poi spedì uno dei servi da un fabbro per mettere delle sbarre di ferro alle finestre in modo da resistere abbastanza a lungo per cercare aiuto e per dormire la notte. Dopo scrisse al capitano John Bush. La circolare di cui si parlava nell'elenco delle accuse del re era nelle sue mani. In effetti il console americano si era seccato moltissimo. Il signor Hood era arrivato a Bangkok soltanto l'autunno prima ed era molto attento a conservare la dignità della sua posizione. Si era sentito insultato dal fatto che il suo nome era stato scritto alla fine della circolare, mentre i nomi della signora Leon Owens e del console inglese erano all'inizio. Anna ricordava l'incidente perché aveva condiviso il risentimento del console americano. Il suo nome di certo non avrebbe dovuto comparire prima di quello del console. Sapeva di non esserne responsabile e che la sua calligrafia non compariva proprio nella circolare. Credeva di ricordare bene a chi appartenesse la scrittura. Nel biglietto si limitò a chiedere al capitano Bush di cercare la circolare, se era ancora in suo possesso, dal momento che tra lei e il re erano insorti dei problemi in merito a quel documento. Bush arrivò quella sera, l'amico di sempre dalla faccia rossa come il primo giorno a Bangkok. «Ecco, ma'am», le tese la circolare. «Ah, bene, aveva avuto ragione, ma perché ne ha bisogno?» «Vorrei che lei la portasse al re». Senza capire, ma in qualche modo divertito, lui acconsentì. Con molta difficoltà Anna convinse Pra Alak, che viveva nelle vicinanze, a organizzare subito un appuntamento per il capitano Bush. Ammesso alla presenza del re, consegnò la circolare. «Ma'am Leon Owens mi ha informato che Sua Maestà desidera vedere questa», disse semplicemente. Monkut lo guardò con aria interrogativa, ma il sorridente inglese non aveva nessuna spiegazione da offrire, dal momento che Anna non ne aveva date. Sua Maestà prese la circolare e la esaminò attentamente. Il suo viso si fece bianco, poi sbalordito, poi vi apparve un'espressione contrariata. Si portò la mano alla fronte. La calligrafia era la sua. «Mi sono dimenticato», disse confuso. Il capitano Bush, in breve, fu di ritorno a casa di Anna, ridacchiando per il disappunto del re. «Adesso mi racconta di cosa si tratta?» chiese. Anna lo fece. «E c'era anche un problema riguardante un libro?» volle sapere. «Sì», rispose lei, «il re mi aveva accusato di aver rubato un libro dalla sua biblioteca». «È perfetto!» E il capitano Bush gettò la testa all'indietro in una fragorosa risata. «Mentre ero là, una principessina è arrivata strisciando nella stanza con un libro in mano e ha detto qualcosa sull'averlo trovato in una delle camere da letto». Il capitano aveva portato da parte del re la rassicurazione di una cordiale riconciliazione, ma Anna esitava. Sicuramente sarebbe occorso un po' più di tempo perché una rabbia così titanica sfumasse. Riaprì le finestre e le porte con molta prudenza, ma non tornò a palazzo per parecchie settimane. Quando il Chow Pia arrivò con la posta dall'estero, il re la convocò perché tornasse al lavoro. Lei obbedì tranquillamente, senza dire niente. Sedette al solito tavolo e prese a copiare la pila di lettere che il re aveva scritto. Dopo un po' lui si avvicinò. Lei non alzò lo sguardo. «Mem, lei ha un grosso problema», disse con tono di rimprovero. «Mi piace e la favorisco molto, ma lei è ostinata. Lei non è saggia. Perché è così difficile? Lei è solo una donna. È brutto che sia così testarda. Adesso ha obiezioni a scrivere a Sir John e digli che sono un suo buon amico?» Anna non poté che sorridere a questo modo di sfuggire al problema tra loro. «Per niente, Vostra Maestà», rispose con garbo, «se tutto quello che desidera è una lettera di auguri». Scrisse la lettera e la consegnò al re perché la controllasse e la firmasse. Lui non era soddisfatto, aveva sperato che avrebbe ceduto, gli si leggeva in faccia. Con un grugnito restituì la lettera e lasciò la stanza per manifestare la sua seccatura a qualcuno meno ostinato di quel grosso problema di donna. Nonostante l'inizio poco promettente, la riconciliazione fu completa per quanto riguardava Sua Maestà, il quale prese Anna ancora più nelle sue confidenze.